questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Meno di 200 giorni dopo dall'infortunio, dalla rottura del tendine d'Achille, il 40enne Javier Zanetti potrà giocare la partita numero 604 della sua storia in Serie A. Run, boy, run. Si è visto proprio lo spessore di mezzo, un giocatore che ha vinto tutto. Io lo dico a volte, glielo ho detto, non solo il tipo che fa le sviolinate, anche un giocatore importante, ma lui è davvero, sembra bionico, no? Mi viene da dire, a 40 anni, dopo l'infortunio che ha avuto, è entrato in campo con una padronanza, una sicurezza, una sorpresa anche a me. Ciao a tutti, allora, dopo aver sentito Cuore di Rana di questa mattina, io ho fatto delle indagini e ho scoperto perché Giovanni Storti, il vero motivo per cui Giovanni Storti ha scritto questo Corro perché mia mamma mi picchia, libro di da runner. Non è vero che sua mamma lo picchia, è vero invece che vuole diventare come Javier Zanetti. È vero, hai scoperto l'arcano. Hai visto? Vorrei diventare come lui, non ce la farò mai, chiaramente, però... In compenso, tu e Giacomo potreste prepararvi per la maratona di Giacarta. Di Giacarta, perché Giacarta esiste prima di tutto. Esiste Giacarta, esiste. E non, sì, Giacarta, e non Giacartone, sì. Precisiamo. No, fa bravo che poi cominciano a telefonare, sì, anzi 800240024. Giacarta perché suppongo che dovremmo andare a rendere omaggio al prossimo presidente. Certo, Toir, no? Sì, sì. Arriva giovedì. Non è che viene lui qua. Sì, sì, sì, viene lui. Nella via parallela a questa, Hotel Meliá, giovedì arriva, cena con Moratti. Il giorno mi ha risparmiato la maratona. Meno male. Meno male. Meno male. Ho un'autonomia di 10 km io. Facciamo la staffetta. Vabbè. Ragazzi, ma come state vivendo questo momento del Milan? Del Milan? Sì. Ma dobbiamo fare Giacomo, gli ipocriti o esatto. I sinceri? No, se fate gli ipocriti potete anche dire. Sono molto dispiaciuti che una squadra di Milano versi in queste condizioni, sì, non proprio perché, all'altezza del proprio blasone. Sì, perché siamo cugini. In particolare con i giocatori che si sono trasfusi dalla nostra società. Sono hanno fatto migrati. Il giro largo, hanno fatto la manica per venire a giocare a Milano. Ma poi i risultati non è che stanno venendo. Purtroppo dipende dalla sfortuna a volte, sì, perché nel l'impegno calcio non manca tanto. Mai ecco. Va bene, il giro largo l'avete fatto voi, bravi. Di corsa, di corsa tra l'altro. Ma quanto corri? No, ma non così tanto come... Non è vero, corre tantissimo. Corro abbastanza. Adesso tutti c'è i giorni? Gente... No, un giorno sì, un giorno no, più o meno. E tu per Giacomo? Cui... 2-3 volte alla settimana, ma da schifo, capito? Cioè, proprio mezzo 40 minuti. Ma capisci, è un atteggiamento mentale che ha. Se lui non si insultasse così sarebbe forte. Beh, ma dimmi come fa. Come Zanetti, vedi? Come Zanetti, cioè, Zanetti dice. Ma non ti rompi le palle a correre? Io sì, io ci vado perché sennò sai... No, ecco. Vedi Giacomo? Invece Giacomo no, io fino a un po' di anni fa io giocavo a calcio e mi dava fastidio la corsa. Anch'io dicevo, ma che rottura di balle, eccetera. E invece... Poi ha il suo fascino, veramente, ma non è spiegabile. Devi correre, poi la compagnia, corre in compagnia. Quindi... Beh, io se trovo una di 1,80 m bionda, magari ne corro dietro. Ma ci sono, e quindi... Allora vengo con te, allora vengo con voi. Non hai più scuse. Non hai più scuse, vedi? Devo venire con voi. Io anch'io l'ho vista, infatti mi sono avvicinato e mi ha detto, sparisci sgorbio. Ma adesso non vale il giro largo, l'Inter di Mazzarri. Sta correndo, eh? Beh, sì. Ma sì, direi di sì, dai. Mi sembra che un po' di gioco ci sia, è chiaro. Secondo me fa catenaccio. No, non è vero. Le ripartenze sono potenti, non è catenaccio. Giovanni, non cade nel tranello. Sta, sì, voglio dire. Vabbè, allora anche Mourinho faceva catenaccio. un meraviglioso catenaccio intelligente. Guarda, secondo me, poi i loro signori capiscono quello che vogliono, va bene. Però, secondo me, il capolavoro dell'Inter di Mourinho è stata la partita di Barcellona. Il capolavoro vero è stata quella partita a Barcellona. Quella era un'emergenza, non era un catenaccio. Allora anche la Juve con Napoli ha fatto catenaccio? Io non... Allora, premetto che non ho niente contro il catenaccio. Però è stato chiaramente un gioco difensivo. Ed è così che si vincono quelle partite. Cosa vuoi, giocare a pallone col Barcellona? È un gioco di ripartenza. Prima non perderla. Sì, esatto. E poi difensivo. Dipende dalla qualità tecnica che hai in campo, no? Dai giocatori, da che cosa vuoi ottenere. Non vi strappo una battuta polemica neanche a morire. No, cosa vuoi che ti risponda? Cioè, si può essere polemici con la propria mamma? Si può essere polemici con la mamma? Massimo ti tiro una padellata. No, ma quello che dico io è che se tu vedi l'Inter di Mazzarri, una sola punta, il povero Palacio. Ma lì perché non ce ne sono altre per ora? Ma sì, ma voglio dire, Icardi, sì, adesso ma altro da fare. Vabbè, c'è la pubalgia, è stato operato di ernia, per cui rientrerà tra un mese e mezzo. Milito ha dei problemi. Poi il tasso tecnico, insomma, è quello che è. Insomma, no? Va bene, quindi... lo scudetto lo vince la Juventus, siamo d'accordo, poi vi saluto. Beh, insomma, diciamo che vista sabato è una squadra potente anche tecnica, e poi sa reagire bene, no? Sì, e poi ha tutto il contorno che insomma non fai mai male. Tutto il contorno lo Juventus Stadium, cosa avete capito? No, tu cosa hai capito, no? Comunque noi puntiamo al terzo posto, sarà durissima, perché dobbiamo sperare in un calo vertiginoso della Roma, però insomma. Allora, Giovanni Storti, Giacomo Porretti, io vi ringrazio un sacco. Grazie a te. Vi aspetto presto, così magari con Pardo ci divertiamo di più per un'ora intera. Quindi siamo di nuovo convocati. Siete di nuovo convocati. Vi convocherò molto presto. Grazie. Ok, grazie, mister. 800240024, Pardo sta arrivando, sta parcheggiando, vi aspetto dopo. Il pigiama dov'è? Non c'è il pigiama. Non c'è il pigiama? Dormo nudo. Dormi nudo? Cioè, c'hai due bronchiti al giorno e dormi nudo? Ragazzi, stiamo calmi, non è successo niente, vorrà dire che gli presterò il mio. Sì, però anche tu, ti sembra il caso di dormire con la maglietta di Sforza? E quella di Ronaldo era finita. Tutti convocati. Dunque, con il nostro creativo Franco Piantanide e Roberto Scaltritti in regia, è arrivato un altro popolare runner che potete incontrare per il di Milano. Sì. Pierluigi Pardo. No, c'era un periodo che correvo, è stata una delle esperienze più tristi della mia vita. Ma no, ma ho i crociati distrutti, non ho il fisico. Poi c'è Tiki-Taka che incombe. Poi c'è Tiki-Taka, esatto. Bisogna pensarci giorno e notte. Una cosa. A proposito di lavoro, Pier. 800240024. Starete lavorando, però una chiamata potete anche farla se ne avete voglia. Anche due, anche due per... oppure i messaggi. Però adesso 349-238-6666. 238-6666. Sono due giorni che in Italia non lavora più nessuno, lo sai? Perché? Perché sono impegnati a confezionare fotogrammi del gol di Llorente per poi inviarmeli via mail. Gli ultimi stamattina. Prospettive diverse, cioè da un'angolazione o dall'altra, a seconda dei colori del tifo. Sì, ma insomma, vabbè. E devo dire la verità che ieri anch'io ne ho ricevute parecchie centinaia, però quasi tutte, da una parte e dall'altra, mancavano di un presupposto, il pallone. C'erano delle foto strette in cui... però servirebbe vedere il pallone, dettaglio, e servirebbe anche che la telecamera e la foto fosse perfettamente in linea. Detto questo, posso dire veramente, siccome già ieri sera me l'hanno veramente sbomballata, si può dire in radio? Come no? In trasmissione. Come no? Insomma, c'è stato un verdetto del campo. Il dibattito è interessante, perché per esempio Clemente Russo, campione del mondo di box, tifoso del Napoli, dice: tu puoi perdere un mondiale di box per un episodio, per un pugno, per un mezzo... per un mezzo punto per i giudici, e quindi ogni dettaglio può essere decisivo, soprattutto in uno sport come il calcio, mentre intanto io mi sento qui tipo distorto, vabbè, ma non importa, sì, anch'io. Vabbè, bellissimo. No, e quindi chiaramente in uno sport come il calcio qualsiasi episodio può essere importante, e questa è una scuola di pensiero. Però siccome noi non abbiamo la macchina del tempo o non sappiamo cosa sarebbe successo senza l'annullamento di quel gol, dobbiamo vedere l'unica partita che possiamo commentare, che è quella che c'è stata, e questa partita l'ha stradominata la Juve. Io penso che è l'unica cosa che possiamo fare, riflettere su quello che abbiamo visto. Poi ovviamente al tifoso del Napoli può rimanere il legittimo sospetto, il legittimo punto interrogativo, la speranza che magari sarebbe stata una partita completamente diversa. Ma insomma, la partita l'ha stradominata la Juventus, non so se sarebbe stata una partita diversa. Si può anche dire che prendi il cazzotto a freddo per tornare su Clemente Rosso e reagisci in una maniera diversa da come ha fatto il Napoli. Poi mancano 26 giornate. Io, più che i tre punti, che sono importantissimi, per carità, alla fine dell'anno potrebbero anche essere decisivi, mi concentrerei su quello che questa partita ha detto. E quello che ha detto, certo, è che, certo, come da una parte e dall'altra, la Juve mi sembra nettamente più pronta in questo momento per potersi confermare. Ma sono curioso di sentire cosa ha detto su questa storia dei 21 centimetri di sera a Tiki Taka. Mughini. Ma guarda, Pierluigi, francamente io pensavo tra me e me, venendo qui alla tua bella trasmissione, spero di non dovermi umiliare a discutere sui 21 centimetri. Umiliare a discutere sui 21 centimetri. Mughini è meraviglioso, io confesso proprio un'adorazione totale. Perché? Perché vabbè, poi le dice con questa forza televisiva incredibile. La verità è che in altre circostanze si è protestato anche dall'altra parte. Quindi secondo me il dibattito sui 21 centimetri è un dibattito che ci stava, che ci sta. Poi vabbè, insomma, Auriemma ieri sera era scatenata, è andato a male lo scialatiello, cioè aveva qualcosa proprio di digestivo complicato. Lo salutiamo, Raffaele. Però insomma, ripeto, la sostanza della partita è chiarissima, e secondo me è nell'interesse prima di tutto dei tifosi del Napoli e di Benitez chiudere questa pagina e concentrarsi sulle tante cose che non hanno funzionato a Torino. Sì, ma mi sembra che Benitez non l'abbia neanche aperta, come al solito, lì è bravissimo. Ma sai cosa ti dico? Poi sentiamo Massimo da Treviso e tutti gli altri che stanno arrivando, 8-0-0-24-0-0-24, che secondo me poi dicono ci vogliamo vedere in campo, il solito discorso, ma secondo me questo episodio è stata la sconfitta più clamorosa della Moviola in campo. Perché? Perché se ci fosse stata la Moviola in campo, adesso sono le 14:23 agli orologi di Radio 24, quella partita si starebbe ancora giocando adesso. Adesso non avremmo capito. Sì, anche se poi parlando con i moviolisti hanno... Io ho parlato con due moviolisti, i due di Mediaset, e tutti e due hanno dato lo stesso verdetto sulle immagini. Poi è vero pure che, e questa può essere una chiave interessante, che comunque anche la realtà delle immagini è una realtà che non è del tutto oggettiva, nel senso che poi dipende dal cameraman, dipende dal livello di reattività del regista. Insomma, non sempre c'è un'immagine al 100% sicura. E per cui, insomma, voglio dire, vabbè, sono chiaramente dettagli. Di che la Fiorentina è bella? Fiorentina è bella, la Fiorentina sta giocando. Sei contento, bene. Alessandro? Vabbè, ma non ci vuole neanche molto, non mi sento violentato intellettualmente nel dire la Fiorentina è bella. Fiorentina, se volete, lo scriviamo anche su Twitter, è addirittura bellissima. Sì. Per gente a parte, la partita dominata la Juve perché è andata in vantaggio in fuorigioco e dopo non ha subito il rigore che c'era su Higuain. Secondo me il rigore non c'era su Higuain, si sono strattolati tutti e due. Cesare dice che c'era. Ribadisco, i se e i ma non esistono. I se e i ma non esistono. Se volete, possiamo fare quell'annosa conta degli episodi e possiamo cercare di sistemarli. Il Napoli ha avuto delle partite nelle quali è stata favorita, come contro la Fiorentina e contro il Torino. Probabilmente, anzi, sicuramente su quell'episodio lì, il tifoso del Napoli può avere da recriminare. Un giorno adesso ci metteremo a fare la raccolta degli episodi a favore e contro questa e quella squadra. Così. Ma parliamo del football, no? Parliamo di questo gioco meraviglioso, no? Massimo. Sì, ciao. No, niente, allora la mia telefonata era proprio per tornare su questo argomento. Allora, stiamo parlando di un fuorigioco di 21 centimetri, visto, rivisto in 200.000 modi, con tutte le considerazioni che ci possono essere, ultima delle quali magari meno citata di altre, che nel momento della segnalazione, possibile segnalazione, il giudice di linea era impallato da un giocatore del Napoli che non gli consentiva, ma insomma stiamo parlando di cose veramente che però hanno poco a che fare con molto borderline, con la, sì, con la cultura sportiva, perché adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo, no? Allora, premetto, sono juventino, ma in questo senso cercherò di essere laico, no? Dico solamente che una situazione del genere può verificarsi nell'arco di una partita più di una volta, è molto, molto, davvero molto difficile poterla individuare, parliamo di frazioni di secondo, e dove se il posizionamento del giudice di linea non è pressoché perfetto è quasi impossibile. Sì. Siamo veramente, secondo me, un po' oltre, no, il concetto insomma di quello che deve essere una partita di calcio, cioè Massimo, però noi viviamo oltre il concetto di una partita di calcio, esatto, perché è il nostro normale modo di vivere questo, no? Esatto, ma è proprio questo, cioè voglio dire, poi al di là del fatto che questa è una mia personalissima convinzione, può darsi che mi sbagli, se la condizione fosse stata rovesciata, sono convinto che oggi di questo non ne parleremo. Sì. Cioè, quando parliamo di un episodio che ha riguardato la Juve, per tutto un discorso. Sì, no, ma questo è evidente. Questo è evidente. Poi ci sono anche quelli che possono dire: va bene, in dubbio pro Juve, perché questo certe volte succede, però io sono contro la polverizzazione delle partite. Assolutamente. Anch'io sono contro la polverizzazione. È vero che il calcio è uno sport di episodi, sì. Altre volte molto di più di questa situazione, perché la Juve, manca la controprova, ma anche senza questo gol la partita l'avrebbe potuta vincere, e da quello che si è visto c'erano buone probabilità che la vincesse. In altre situazioni, quando gli episodi avvengono con la partita che sta per finire, per esempio a Roma in queste ore si protesta per l'episodio di Floro Flores all'ultimo secondo, è chiaro che quello lì, se dai fallo in attacco, è finita la partita. Per fare un esempio, ma non voglio aprire quel file lì, io penso che veramente, io mi so già sì, ecco, di parlare di questi episodi. A me sembra che, e lo dicevo quando la Juve era a meno 5, lo dicevo, e quindi insomma lo dico a maggior ragione adesso, che la Juve sia in questo momento la squadra più pronta, più feroce, più esperta. Poi evidentemente è un campionato aperto, bellissimo, e ha ancora tantissime cose da dire. Se la Juve perde l'atteggiamento che ha avuto nelle ultime 4 partite, poi tutto può cambiare. Allora, adesso ci dobbiamo fermare per la borsa, poi Massimo da Padova e Alessandro da Bologna naturalmente resteranno in linea. Dopo io vorrei parlare però di quella che è, secondo me, la notizia più, cioè il tema più interessante della giornata. Vi leggo questa mail di Giacomo, che non è quello che di original one che abbiamo sentito prima, ma è un ascoltatore, che scrive: Giacomo dalla Spezia, milanista, colmo dei colmi è che dopo Chievo-Milan di domenica l'allenatore esonerato è Sannino e non Allegri. Secondo me questo è il tema più interessante della giornata. Questo è il mio tweet di stamattina, grande sintonia con questo. Giacomo, che saluto. Giacomo. Tutti convocati. Che mi ricordano la Student Union, Londra, Greece, eccetera, eccetera. E poi parliamo di calcio, dai. Hello. Questo è degli Oasis. We had a chance, we threw it away. Abbiamo buttato via questa occasione, no? Ma hello, sai a chi, no? Allora, non a Massimo da Padova, a Sannino e a Delio Rossi. Assolutamente, Delio Rossi, notizia di ieri sera, Sannino di stamattina, ma insomma, stesso destino. Ultime parole famose. No, io non ho parlato con la società, però sono un uomo di calcio, so come funziona. È chiaro che noi siamo giudicati dai risultati, però le scelte non competono a me, competono alla società. Io devo pensare solo esclusivamente a lavorare, poi sul mio lavoro giudicherà la società. Si avvicina il derby, insomma ci sono i presupposti per continuare assieme? Ma io questo non lo so, io quando parlate con me Vi parlo del campo, del calcio, dei giocatori, della squadra. Queste domande ormai si parla dalla domenica alla domenica sempre di questa storia qui. Quando avrete notizie sul mio futuro, ma che dipende sempre dalla società, lo saprei direttamente da loro. Io sono allenatore del Chievo e lavoro finché mi si dà la possibilità, come sto lavorando finora, dando sempre il massimo. Hello Sanino, hello Degli Rossi. È un giochino famose. Abbastanza facile, nel senso che poi in realtà nelle pieghe di queste parole già insomma era evidente un destino di un certo tipo. Devo dire che nel caso di Sanino è abbastanza sorprendente perché insomma essere esonerato dopo un pareggio in casa contro il Milan, dopo come diceva una buona partita a Roma, esatto, non dimentichiamo, e un pareggio a Bologna, insomma, più che altro che non segna mai Chievo, c'è questo piccolo dettaglio che può essere utile, diciamo, per salvarsi. Anche perché per segnare ci vogliono attaccanti di livello. Il Chievo, però Corini, ottima attaccanti. Scelta secondo me, torna Corini, conosce l'ambiente, insomma, non era stato riconfermato in estate dopo una buona stagione. Bisognerebbe anche capire perché aveva avanzato richieste economiche che non erano in linea con quelle della società. Questa è la motivazione. Massimo Padova, dunque, lei avrebbe mandato via Degli Rossi, Corini e Allegri soprattutto? Beh, premesso, sono milanista, purtroppo, tristissimo, quindi vabbè, è un periodo un po' così. Poi per concludere invece quello che dicevate prima sugli episodi, si rischia di entrare nel solito labirinto dove non se ne esce più. Ci siamo dentro da giorni, da domenica sera. Sì ma preferirei tipo le battute, tipo quella che si diceva: cade il governo, rigore per il Milan, queste cose qua sono più simpatiche. Oppure c'è tutto il filone Rocco, qui Davide su Twitter ci scrive che 21 centimetri è sotto quota, e quindi può umanamente non essere visto, c'è tutto esatto. Un filone sì, parapornografico dietro a questa strada di 21 centimetri. Sì. Comunque la mia domanda era: ma quanto schifo fa a guardare una partita del Milan ultimamente? Cioè, non lo so, lo chiediamo a Alessandro da Bologna quanto schifo fa. Alessandro Capiano, sì. Io sono juventino. La domanda è: quanto schifo fa guardare una partita del Milan ultimamente? Sì, no, ho capito, ho visto poco, ma no. No, volevo dire due cose rapidissime su Juventus-Napoli. La prima, anche se vi annoia, però insomma, se bravissimo Pierpardo inizia l'argomento su quello, volevo chiedere se non vi viene la curiosità di andare a vedere le immagini che ci sono, nelle quali si vede che Fernandez tiene in gioco Llorente o al massimo, e non sono 21 centimetri ma 21 millimetri, proprio una cosa mia. E cioè è nato tutto da Sky, che ha toppato, ha messo la linea sul penultimo difensore, non sull'ultimo, e poi ovviamente tutta una discussione sul nulla, perché la Juventus ha strameritato. Però se dite che palle, poi iniziate. No, certo, ha ragione. Rimettendo. Vabbè, ragione. Comunque insomma, però ci sono delle foto chiarissime. Sì, siccome io ho parlato, ho parlato con Cesari e Paparesta, e ho passato la giornata ieri a dire: mi raccomando, Graziano, guardati sta roba. Quello che lui dice, e in effetti io non ho visto un'immagine nella quale si vede il pallone, io l'ho vista quella immagine col piede, però non si vede il pallone. Non si vede il pallone. Se ce n'avete una dove si vede il pallone e dove c'è la telecamera di 16 metri messa in linea e si vede che sono sulla stessa cosa, cambia tutto. Io ne ho ricevuto mille, saluto tutti quelli che me l'hanno mandate. Saluto anche Franco Ordine, e sono intanto assolutamente sulla stessa linea, ma non si vede il pallone. Per cui che, poi veramente, cioè, ecco, posso fare Mughini, non volevo umiliarmi a parlare di queste cose, ecco, ma veramente la sostanza della partita per me è chiarissima: la Juve ha dominato. Al tifoso del Napoli può rimanere il dubbio, il sospetto che non sarebbe successo senza quel gol, ed è un sospetto che il tifoso del Napoli secondo me può tenersi legittimamente, ed è difficile fargli cambiare idea. Ma la partita che abbiamo visto, l'unica di cui possiamo parlare, perché è l'unica che abbiamo visto, non è quella con i Se e con i Ma, dice che la Juve ha stradominato, e io mi fermerei qui e passerei a Franco Ordine. Buonasera Ciccio, come stai? Benissimo, volevo dirti che Mughini avrebbe commentato così: abarr. Vabbè, adesso qua è cabaret, tanti ficar e picol. Buonasera Ordine, sì. Buonasera. Franco, ma avresti confermato Allegri? Ma guarda, io ti dico francamente una cosa, è una situazione questa che non convince più, perché è diventata troppo precaria, perché è diventata troppo insicura, perché soprattutto con il tam tam, adesso lo mandano via, domani lo mandano via, no domani, no dopodomani. Intanto hanno tolto credibilità al suo lavoro. Bravissimo, poi è delegittimato. E poi hanno tolto soprattutto, secondo me, efficacia a eventuali suoi provvedimenti, a eventuali sue scelte. Insomma, questo è quando facciamo proprio un paragone che secondo me è calzante. Quando c'è in una coppia qualcosa che non va, tu pensi di poter prolungare, magari fai, dici vabbè, mi do 6 mesi di tempo, vediamo che succede, partiamo l'estate, poi dici vabbè, facciamo almeno le feste di Natale, ma non c'è niente da fare. Se non c'è nei suoi confronti, lui si sarebbe solo salvato se dopo aver guadagnato il preliminare di Champions avesse cominciato il campionato in maniera meno problematica e meno rallentata rispetto all'anno scorso. Così ma non allora, è stato. Allora perché l'hanno confermato, Pardo? Perché? Perché? Perché c'è stata quella famosa... Cioè, forse dove, anche... dove sta la ragione di questo? Posso dire forse anche per un problema di ingaggio legato a Seedorf? Oppure è una visione materialistica della vita? No. Dunque, allora, la conferma dell'anno scorso è avvenuta per le difficoltà che c'erano di natura economica, perché Seedorf, per svincolarsi dal Brasile, aveva bisogno di pagare una penale. Secondo, non ancora aveva le carte in regola per poter allenare in Italia. Quindi c'erano due impedimenti secchi che hanno costretto a rinviare il suo avvento sulla panchina del Milan, che arriva invece regolarmente a giugno. Sì, ma a questo punto la stagione la buttiamo via, cioè al Milan hanno deciso questa stagione la buttiamo via. No, quale può deciso, essere l'obiettivo? Non è che hanno deciso di buttarla via, e in questo momento loro non pensavano che le cose potessero andare così. Obiettivamente quest'anno non può essere come l'anno scorso. Qui c'è Pardo che sa benissimo che in tempi non sospetti mi sono permesso di fare questo pronostico. Non pensiate che possa accadere poi la rimontona dell'anno scorso, perché non ci sono le condizioni minime perché questo avvenga, e soprattutto perché poi non c'è un altro Balotelli in arrivo a gennaio, ma soltanto Ramy e Honda. Magari ce n'è uno in uscita a gennaio. Sì, non credo in uscita di... No, Balotelli no, a gennaio non si può muovere. Si muove l'estate. No, ma non si può muovere perché uno dei motivi che in questo momento pesano anche sulle spalle di Allegri da parte della società è quello di aver, diciamo, non interpretato al meglio il rapporto con Balotelli. Ma quel rifiuto, cioè quella scelta legittima di Allegri di non schierarlo a Barcellona, e soprattutto le dichiarazioni successive, le quali faceva apparire quella scelta come una scelta normale, ovviamente che rientra nelle sue prerogative, come è stata vissuta dalla società? È stata vissuta da lui, società, dal giocatore, è stata vissuta diciamo in maniera negativa, non tanto la scelta quanto le spiegazioni successive. Dalla società, sulla stessa linea del giocatore, perché non può perdere un patrimonio e non vuole perdere un patrimonio e non deve perdere un patrimonio. E quindi da questo punto di vista la società ha rispettato la volontà dell'allenatore, che lo ha messo da parte, ma non ne ha condiviso lo spirito e soprattutto la spiegazione. Comunque il punto centrale è quello che Franco Ordine ha toccato prima, cioè Allegri è stato totalmente delegittimato, per quanta poca legittimazione potesse ancora avere nei confronti della squadra, nei confronti dei giocatori. Ma questo poi le fiducia a tempo, anche nel mondo normale non dovresti aver bisogno di un rinnovo contrattuale per essere legittimato, nel senso che ti pagano fino al giorno X e tu dovresti fare il tuo lavoro e tutto l'ambiente ti dovrebbe interpretare come quello che comanda. Però sappiamo bene che nel calcio non è così, e quindi sì. Probabilmente questa sorta di limbo nel quale si è trovato quest'anno Allegri, cioè mancato rinnovo contrattuale, però conferma per questa stagione, ha finito per indebolire la sua immagine agli occhi anche dei giocatori. Poi io non so neanche dirti onestamente, questa squadra, con tutti i problemi che ha avuto, anche di natura fisica, che margine di migliore, cioè se realmente non si stia impegnando, se stia facendo il 50%, non lo so, sinceramente, no, non lo so. Anche ci sono dei limiti, secondo me. Per Luigi, quello che è successo è molto semplice ed è anche molto grave. E cioè, poiché la squadra era stata bombardata dalla fine della partita di Siena fino all'inizio del preliminare di Champions andata, sul fatto che quello era un passaggio decisivo, vitale, che avrebbe orientato tutta la stagione successiva, la squadra si è allenata e si è preparata per quelle due partite. Finite quelle due partite, la squadra, come è tornata da Eindhoven, ha staccato la spina a Verona, prima partita di campionato, e già lì si vedevano... si vedevano le conseguenze di questo martellamento, diciamo ossessivo, legato solo e soltanto a due partite, a una piccolissima, minuscola parte della stagione. Sì. Franco, ti chiedo di restare con noi ancora qualche minuto. Abbiamo il traffico, abbiamo anche molti ascoltatori che premono ai cancelli dell'800240024. Tutti convocati. Dunque, da Franco Ordine e poi da mio compagno di viaggio Pierluigi Pardo, volevo un'altra battuta su altra sconfitta della domenica. Io ho detto, siccome è stata sconfitta la moviola con quello che è successo a Torino e tutte le conseguenze che ne sono derivate, le chiacchiere che ne sono derivate, ma è chiaro che è stata anche la sconfitta della logica della tessera del tifoso. Anche qui, da Torino fino a Nocera, sapete bene delle curve della Juventus chiuse, sapete di quello che è successo dentro lo stadio di Torino con i rubinetti e i sacchi di liquame che volavano. E allora, la tessera del tifoso a che cosa serve? Franco Ordine? Ma guarda, non serve a niente, ma soprattutto io però separerei i fatti che sono venuti, perché fare un bel mischione, una bella insalata non è mai cosa buona e giusta. Allora, quello che è successo a Salerno è cosa e vicenda che attiene all'ordine pubblico e che chiama in causa senza ombra di dubbio il prefetto e il questore, la gestione di quello che è avvenuto nelle ore precedenti alla partita, persino nei dintorni dello stadio, dove secondo una ricostruzione c'erano gruppi di ultra della Salernitana che facevano posti di blocco per capire se le macchine che arrivavano verso lo stadio erano provenienti da Salerno o da Nocera Inferiore. Questa è criminalità comune, però. Esattamente, perciò ti dico che è questione che riguarda l'ordine pubblico, il prefetto e il questore. Secondo episodio, quello di Torino, è un cattivo comportamento da parte del calcio ormai non tenere conto degli incidenti che avvengono dentro lo stadio, mentre invece abbiamo i famosi ispettori della Procura Federale che tendono l'orecchio per sentire il minimo coro, del quale obiettivo che fa nessun effetto, nessun danno e soprattutto non procura assolutamente nulla rispetto alla partita. Mentre invece quello che è successo, per esempio, vi ricordo in Inter Juventus a San Siro, vi ricordate l'assalto al tifoso della Juventus, oppure quello che è successo ieri, l'altro ieri a Torino, dove ci sono stati lanci oltre che gabinetti diversi eccetera dentro lo stadio, questa è secondo me materia che deve rientrare assolutamente non nella discriminazione territoriale, ma deve rientrare assolutamente nel comportamento delle tifoserie. Sì, anche perché la discriminazione territoriale qui non c'entra, c'entra un episodio che anche in questo caso attiene all'ordine pubblico, di criminalità, no? Vandalismo, sì, esatto. Grazie, tristezza Franco, cosmica, tristezza cosmica. Franco Ordine. Lo lasciamo andare? Sì, avrà da fare. Io vi saluto. Grazie. Quindi la tua previsione è che Allegri mangerà il panettone e arriverà a fine stagione? No, la mia previsione è che secondo me è stato spostato a Glasgow la deadline. Perché obiettivamente affidare una partita così decisiva come quella di Glasgow col Celtic per la qualificazione agli ottavi di Champions a un debuttante in panchina che sarebbe poi Filippo Inzaghi, quello debuttato a far da traghettatore, è stato considerato un rischio eccessivo, e devo dire francamente che ne condivido lo spirito. Quindi praticamente è convenuto ad Allegri perdere a Barcellona, sto scherzando, però insomma, se a Barcellona fosse arrivato un risultato positivo, quella partita avrebbe avuto meno pressione, ma ovviamente fosse arrivato un risultato positivo non staremo a discutere Allegri dopo una grande impresa a Barcellona, o perlomeno verrebbe discusso un po' meno. Grazie Ciccio. Saluti. La prima cosa è che uno deve pensare subito a riprendersi e fare di tutto per tornare e per rendersi utile quando viene chiamato in causa. E in tutti questi mesi io subito dopo l'intervento mi avevo promesso di almeno fare un'altra partita davanti ai miei tifosi, credo che di più non posso chiedere, perché è venuto tutto così. Ma stai imparando l'indonesiano? Farai il dirigente anche tu con lui nell'Inter del futuro? Con Tohir? È un po' difficile imparare l'indonesiano, però mi piacerebbe tantissimo continuare a essere legato a questa grande famiglia che è l'Inter. Sì, sì, rimane un amico, una persona con la quale abbiamo condiviso tanti momenti belli, che al di là di essere un allenatore è stato molto vicino nel momento del mio infortunio. Non ci siamo visti, però credo che il nostro legame continuerà sempre. Ed era Mourinho l'ultimo. L'ultimo soggetto della frase di Zanetti, sì, sì, ieri sera, tuo ospite, era appunto José Mourinho. E mi sembra che, insomma, l'autocandidatura poi non è un'autocandidatura, perché sappiamo, insomma, che se dipendesse solo da Moratti, insomma, Zanetti potrebbe fare altri 40 anni nell'Inter da dirigente, sì. Però, insomma, mi sembra che, da dopo che domani sia un po' la notizia. Da dopo domani dipenderà da Tohir. E dopo il GR delle 15 che sta arrivando, parleremo proprio di quello che succederà a 100 metri da qui, giovedì. Il famoso hotel nella via parallela a questa, arriverà Erik Tohir. Probabilmente cenerà con Moratti giovedì, si dice. Venerdì ci sarà il consiglio di amministrazione e vi diremo, vi ricorderemo dopo il giornale radio insieme a Pietro della provincia di Varese e Giovanni della provincia di Milano, che prego di rimanere in linea. Vi racconteremo cosa succederà. A dopo. Tante occasioni, parate di Reina, parate di... Mi hanno detto 21 centimetri di fuorigioco. E quindi? Di che parliamo? 21 centimetri di fuorigioco, bravi. Il segnalino doveva prendere una lente di ingrandimento e un cannocchiale per vedere questo, ecco. Tutti convocati. E Luigi Pardo, facciamo parlare Pietro e Giovanni, che sono in linea con noi. Pietro? Vai. Sì, buonasera. Grazie dell'attesa. Buonasera, buonasera a Carlo Gente e al simpaticissimo Pardo. Grazie. Che con la sua descrizione delle partite mi consente di divertirmi. Niente, io in quanto tifoso juventino... Lei può spegnere il video e tiene l'audio. Sì, sì, sì, sì, io ci faccia caso, il contrario. Posso percepirla così, sì, sì, sì. Dica. Niente, volevo dire, riguardo alla faccenda di Allegri, che secondo me Allegri si sta, o si è addirittura bruciato da solo. Beh, insomma, perché bruciato da solo? Rafforziamo questo pensiero, questo concetto. Sì, sì, nel senso che secondo me, lui l'anno scorso, dopo il campionato che ha fatto, e dopo essere riuscito ad andare in Champions League battendo la Fiorentina, sappiamo tutti come, secondo me la cosa migliore che doveva fare è andarsene, visto che era già stato richiesto dalla società giallorossa. Sono d'accordo. Anziché intercedere con Galliani affinché Berlusconi lo tenesse, perché a questo punto qua, voglio dire, è solo questione di tempo. Cioè, come può lavorare serenamente una persona quando sa che da un momento all'altro... No, ma certo, arriva... ma poi soprattutto aggiungo, come fa un professionista a farsi ascoltare dalla squadra, che sa perfettamente che già non, tra un po' non c'è più, non si sa se domani, dopo il Celtic o quando questo va via, certamente non ci sarà più l'anno prossimo... intercedere presso Galliani ha voluto la conferma di Allegri, ora va via Galliani, vuole che rimanga Allegri, non c'è una chance al mondo. Sono d'accordo, credo fra l'altro che ci sia stato un mix di fattori di spinta che è arrivata da parte di Galliani, di gratitudine, anche forse di qualche dubbio sulla situazione economica reale della Roma in termini di spending, no? Di mercato. Credo che l'insieme di questi elementi abbia portato Allegri alla fine a dire di no alla Roma, lasciandola fra l'altro per qualche giorno veramente nei guai, perché insomma Mazzarri nel frattempo aveva firmato con l'Inter, la prima scelta da Roma era Allegri, e in quel momento lì Garcia era una scelta assolutamente controcorrente, l'ambiente era una polveriera, veniva dalla sconfitta in Coppa Italia, per cui insomma era veramente complicatissimo. E sono d'accordo, io penso che Allegri a Roma sarebbe stato accolto, chiaramente se avesse accettato in quel momento a braccia straaperte. Allora, posso fare una considerazione molto maliziosa? Che è di Piantanita, così mi lavo la coscienza. Chiaro. Piantanita è malizioso per definizione. Ti faccio una domanda ipotetica, come sai, il periodo ipotetico nello sport conta niente. Però, se a gennaio di 2 anni fa fosse arrivato Tevez e Pato fosse andato al Paris Saint-Germain, il Milan avrebbe uno scudetto in più? Probabilmente sì. Sì, poi insomma, nessuno, cioè, o forse noi non avevamo la certezza matematica del fatto che Pato avrebbe avuto ancora tutti questi problemi fisici. No, insomma, adesso... però abbiamo una ragionevole certezza che Tevez sarebbe stato comunque un giocatore importante. Sì, sì, anche se veniva da un momento complicato dal punto di vista dei rapporti con il Manchester City e con Mancini. Quindi qualche dubbio ci poteva essere anche da quel punto di vista. Sa, qui è, però, ti piace vincere facile, è ovvio. Piace vincere, è come dire: se, è come se dire, volete fare delle considerazioni, il Milan ha fatto bene, ha fatto male a vendere Pirlo, anzi, a lasciare libero Pirlo, sì. È chiaro che... E sappiamo come Pirlo non fosse tra gli sponsorizzati di Allegri. Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Io parlo da tifoso un po' disamorato del calcio, però amante della vostra trasmissione, che quando posso seguo sempre. Bene. Allora mi chiedevo semplicemente questo, che quanto valga la pena di parlare per mezz'ora di un fuorigioco di 21 centimetri, di un piede, di una lingua che otteneva in gioco. Mezz'ora, due giorni? Ah, diciamo, bravo, esatto. Io ieri non l'ho potuta seguire, allora mettiamola così. Vabbè, assicuro che sono due giorni. Ecco, e quanto eventualmente questo possa... incendiare animi di tifosi, mi permetto di dire, poco intelligenti, che vanno allo stadio per tirare sacchetti di urine, sì, cose, cioè, no, sì, gli animi si incendono da soli, anche presso quelli che non vanno allo stadio a far casino. Sì, anche perché le 100 foto da una parte e dall'altra con ricostruzioni e Photoshop sul fuorigioco da una parte e dall'altra l'abbiamo ricevute. Sono due giorni che si pagano degli stipendi, non tutti, si paga qualche stipendio non dovuto. No, ma è giusto, cioè, dal punto di vista della cultura sportiva io sono perfettamente d'accordo, però è anche vero che insomma poi alla fine uno segue anche quello di cui si discute e di cui si discute, dei famosi bar, e mi pare che insomma poi anche altri paesi sono messi a questo livello qui. È importante sarebbe riuscire a portare il dibattito su argomenti realmente calcistici, cioè guardare una partita oltre gli episodi, anche se, ripeto, gli episodi nel calcio, per quanto ci piaccia o no questa cosa qui, gli episodi nel calcio sono fondamentali, sì. Perché il calcio non è uno sport in cui succedono 94 cose in una partita, no, come nel basket, dove possono essere importanti, ma insomma se una squadra è nettamente più forte vince di 20. Nel calcio le partite vivono di episodi, e quindi il gol al 94esimo del Sassuolo è un gol che pesa due punti, per fare un esempio. Il calcio di rigore non dato alla Fiorentina all'ultimo minuto contro il Napoli, sì, pesa, e ho preso veramente due esempi a caso, no? E quindi è normale che il tifoso ne parli e ne discuta. Poi, se vuol sapere, io sono più che annoiato da questa roba, non ne posso più. Io il doppio di te, però voglio dire, se io il doppio di te, anche perché non avendo neanche la forza dell'immagine come si deve per te in televisione, è solo un dibattito molte volte sterile. Tra poco vi faccio sentire un'altra cosa divertente, però prima parlavamo di ciò che succederà tra giovedì e venerdì a due passi da qui, da via Monterosa, in un famoso albergo di Milano, consiglio di amministrazione dell'Inter. A quanto forse c'è anche una conferenza stampa di Toir, ma questa è ancora in dubbio. Venerdì nel consiglio d'amministrazione Moratti Massimo uscirà di scena dal consiglio d'amministrazione stesso, rimarranno suo figlio Gianmarco e Rinaldo Gelfi come rappresentanti della famiglia Moratti, e quindi c'è in ballo il discorso della presidenza. Certamente non sarà più Moratti Massimo, ma potrebbe essere Moratti Junior. Secondo me sarebbe una scelta molto logica, perché non ce lo vedo Moratti a fare il presidente dipendente o presidente senza portafoglio. Sì, e poi sarebbe anche una scelta che metterebbe insieme la continuità e il rinnovamento, no? Nel senso che tu avresti comunque un Moratti con quella carica lì, come legame forte per il passato. A me sembra sinceramente che Toir, al di là dei discorsi sulle quote azionarie, avrà bisogno, sente di poter avere il bisogno comunque di una figura che in qualche modo gli dia una garanzia agli occhi dei tifosi e gli dia anche una mano, insomma, nei primi mesi almeno del lavoro. Quindi noi facciamo il tifo per questa soluzione, a me piace. No, non facciamo il tifo però mi sembra. Sì, no, sì, hai ragione. Scusami, mi ha preso male. Cioè, propendiamo per questa soluzione. Penso che sarebbe una soluzione di buon senso, sicuramente. Io non credo che, al di là del fatto che c'è una quota societaria importante che rimarrà nelle mani dei Moratti, ma comunque di minoranza, io credo che Toir abbia già scelto. Ha scelto di non fare una rivoluzione copernicana, ma almeno in alcuni segnali, se vuoi, soprattutto simbolici, perché sappiamo insomma che la carica di presidente evidentemente è importante anche da quel punto di vista, di affidarsi a chi l'Inter in questi anni l'ha gestita, l'ha amata, e agli occhi dei tifosi viene visto come evidentemente un punto di riferimento. Allora, Pier, dobbiamo lanciare qualcosa? Guarda, no, volevo farti sentire un momento di altissimo cabaret ieri, sì, a Sky. protagonista assoluto, ovviamente Claudio Lotito, guest star, il bravo collega Davide Camiccioli. Sentiamo. Ma io, cioè, sto dicendo un'altra, lei sta, scusi, dica, ma lei non, infatti dica, lo dimostra che non capisce, dica, lo dimostra, dica, che non capisce, nel dica, senso della, nell'accezione semmai non capisce, non ha, ignora, ignoras, ignoravi, ignoratum, ignorare, ignora poi mi fatti. Posso dire una cosa? Ma lei a che titolo parla? Se le ha mai gestito lei una società di calcio? Sa quali sono le cose, le problematiche? Che ne sa lei dei problemi? Io so che ci sono i problemi così, che non si vengono risolti facendo come calcio ministro italiano. Ma quale, non ma chi risolti l'ha detto? Risolto la risolta. Ma questo, scusi, i problemi del calcio italiano li risolve lei, cos'è? No! Amplificando questa situazione che sta mettendo in risalto. Scusi, risponda a questo. Mica. Lei farebbe da disputare una partita palestinesi-israeliani? Ma certo! Certo, dal calcio, mi scusi, se non riusciamo a fare una partita di calcio tra palestinesi e israeliani, come possiamo pretendere che poi ci sia una guerra, che si metta fine a una guerra vera? Ma scusi, allora faccio una cosa, lei si faccia nominare ministro, si faccia nominare ministro degli interni, risolve il problema. No, non voglio farmi nominare ministro degli interni. E non le dica, e allora oggi, non ci siamo capiti, ci siamo espressi in due modi diversi. Allora Presidente, io, se vado a vedere, scusi, ma lei, che è una persona responsabile, sì, per quello che perlomeno vuole apparire, se lei avesse avuto una lettera. Oggetto del contenderò ovviamente i fatti di Nocera Salernitana con lo titolo Presidente della Salernitana, ma al di là di questo io ti faccio una domanda, hai un minuto per rispondere, ma come si fa con lo titolo? Beh, per esempio ci possono fare delle pillole autoironiche in cui spiega le frasi latine, non lo so come la si fa a gestire, è chiaro che... Però insomma, Lotito da quel punto di vista, dal punto di vista della sua battaglia, io non entro nel merito, della distanza da un certo tipo di tifo... È incommiabile, l'abbiamo detto molte volte. Cioè, ha fatto una scelta, ammirevole o non ammirevole, non lo so, non so se in certi casi è meglio dialogare oppure no. No. Però insomma, da quel punto di vista non gli si può dire niente, nel senso che è uno che comunque ha fatto la scelta a un certo punto di isolare e di non avere rapporti perché aveva paura che questi rapporti lo avrebbero poi condizionato in tutta una serie di situazioni. Quindi poi insomma, sul discorso Israele-Palestina, veramente. Dato che non siamo in Medio Oriente, per fortuna. Ci vorrebbe un po' la misura, no? Ogni tanto Lotito gli parte un pochino, usa l'iperbole, diciamo. Usa l'iperbole. Va bene, Pier, ci sentiamo domani. Adesso cosa c'è? Soundcheck. Ma ancora non sai il palinsesto, che poi non è che cambia tutti i giorni, che dice un giorno c'è soundcheck, un giorno c'è questo cuore denari, un giorno c'è focus economia, un giorno c'è la zanzara, le grandi inchieste della zanzara. Quando chiamiamo Pepito ci scrivono, presto, appena Pastorello. Stiamo aspettando Pepito. Soundcheck. Ciao. Oggi Carlo non ha mai pronunciato il nome di Mario Balotelli.